Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica dedicata a Fides et Ratio, ovvero il rapporto tra fede e ragione, ammesso e non concesso, che si sappia bene cosa sia l'una e cosa sia l'altra, ovviamente, beh, Papa Giovanni Paolo II affronta quello che per lui e per i cattolici in genere è il problema della scienza. Ad un certo punto, nel paragrafo 54, ripercorre i modi con cui la Chiesa ha messo in guardia nel nostro secolo contro la tentazione razionalista. Cita allora i tre P che nel secolo l'hanno preceduto al soglio pontificale. Il primo è Pio X, che è morto nel 14, dopo aver sciolto l'Action Française, aver scomunicato il sacerdote Romolo Murri, reo di essersi dato da fare per creare il movimento di quella democrazia cristiana che più tardi poi invece alla Chiesa andrà benissimo, contraddizione non sua peraltro, che gli varrà la santità. Giovanni Paolo II lo cita per la sua enciclica, questo Pio X, La Pascendi Dominici Gregis, che è uscita nel 1907, dove se la prende con il modernismo. Il secondo è Pio XI, che muore nel 1939, avendo avuto la tempestiva avvertenza appena un anno prima di emettere la Divini Redemptoris, un'enciclica dove se la prende con la filosofia marxista e con il comunismo ateo, guardandosi bene dal trovare che da ridire sul nazismo. Il terzo è Pio XII, cui è toccato il gravoso compito di gestire guerra e dopoguerra, non condannando il nazismo e scomunicando invece il marxismo e resistendo vivo e vegeto fino al 1958. Giovanni Paolo II ne cita oggi l'enciclica Humani Generis, dove fra l'altro Pio XII mette in guardia contro interpretazioni erronee collegate con le tesi dell'evoluzionismo, per usare le parole proprio esatte del Papa. Queste tesi erano sorte, come dice lui, fuori dall'ovile di Cristo, ma era giusto che non venissero ignorate dai filosofi, dai teologi cattolici. Perché? Perché, diceva Papa Pio XII e ridice con lui Papa Giovanni Paolo II oggi, perché essi devono conoscere bene queste opinioni, sia perché le malattie non si possono curare se prima non sono ben conosciute, sia perché qualche volta nelle stesse false affermazioni si nasconde un po' di verità, sia infine perché gli stessi errori spingono la mente nostra a investigare e a scrutare con più diligenza alcune verità, sia filosofiche che teologiche. Io su questa curiosa argomentazione mi permetterò alcune considerazioni. L'atteggiamento della Chiesa nei confronti dell'evoluzionismo darwiniano allora è chiaro. L'evoluzionismo darwiniano è l'analogo di una malattia. Biologi, paleontologi, filologi e quant'altri abbiano l'infausta idea di guardare le cose in diacronia, ovvero di seguire le cose nel loro sviluppo, sono praticamente tutti lestofanti, untori culturali. Poi che gli errori spingano alla verità è assurdo, bisognerebbe sapere come identificare l'errore in quanto tale. Che nel falso si nasconda il pizzico di verità, se non mi vien detto il criterio con cui sceglie fra l'una e l'altra, è una sciocchezza madornale. Facciamo un esempio. Aristotele racconta nei Meteorologica, racconta di aver fatto l'esperimento di immergere in mare un vaso di cera dopo averne accuratamente turato l'orifizio, di averlo ritirato su dopo un po' e di aver constatato che nel vaso, attraverso le pareti, è penetrata dell'acqua. Ovvio, direte voi, ma aspetta, acqua sorprendentemente potabile, niente affatto salata. Per secoli gli scienziati hanno tentato di ripetere l'esperimento e, siccome ogni volta non hanno trovato affatto acqua dolce, hanno sempre decretato che l'esperimento di Aristotele era un falso o comunque una serie di errori. Più recentemente, meno di 20 anni fa, lo svizzero Stuckelberger ha fatto un vaso di argilla e l'ha cosparso di cera d'api. l'ha messo in acqua di mare e ha scoperto che le pareti del vaso agivano come fosse uno schermo per lo scambio ionico ed è perciò che l'acqua ritrovata all'interno del vaso era dolce e niente affatto salata. Poi vabbè, ha anche scoperto che l'esperimento era stato fatto da Democrito e che presumibilmente Aristotele l'aveva copiato. Magari anche male. Tuttavia, in nessun caso potremmo mai dire che quanto affermato da Aristotele era falso e pur contenente un pizzico di verità. O era sbagliato o era giusto. La consapevolezza circa gli scambi ionici è roba recente, no? E oggi pertanto siamo in grado di capire cosa davvero Democrito e o Aristotele hanno fatto e perché ha funzionato. Era probabilmente tutto giusto già all'epoca loro, ma non era disponibile un quadro teorico tale per cui la spiegazione di ciò che avveniva avesse un senso. Se la Chiesa Cattolica ratifica il concetto di una verità assoluta uguale nella sua teologia come nella scienza, va incontro ad un mucchio di guai peggiori di quelli che ha dovuto affrontare con il caso di Galileo. La scienza non può essere considerata come l'impresa che porta alla scoperta della realtà. Se no, ogni volta che cambiamo, scoprendo qualcosa di nuovo, dovremmo ammettere di esserci sbagliati. Vivremmo soltanto di errori e nella contraddizione di governare un'impresa priva del criterio per stabilire se e quando ha raggiunto il proprio obiettivo. Non a caso, dunque, le verità della Chiesa non si constatano per confronto di due serie di operazioni con gli strumenti a disposizione, ma, come dicono loro, si scrutano, come le si intravedesse in un buio che la Chiesa ama diffondere nel mondo, perché la logica della sopravvivenza dei papi è quella di dare un colpo alla botte della scienza subito dopo aver dato un colpo al cerchio del mistero. Il vescovo George Berkeley, che nel 1710 pubblicò un memorabile trattato sui principi della conoscenza umana, venne messo all'indice per le sue tendenze allo scetticismo. Curiosamente, anche il filosofo suo più o meno contemporaneo David Hume, all'indice anche lui, liquida Berkeley con il medesimo argomento. Nelle sue ricerche sull'intelletto umano dice che Berkeley dichiara di aver scritto il suo libro contro gli scettici e contro gli atei e contro i liberi pensatori, ma aggiunge che, a suo parere, tutti i suoi argomenti saranno anche elaborati con intenzioni diverse, ma risultano puramente scettici. Hume è favorevole allo scetticismo e la Chiesa sembrerebbe di no. Tuttavia sono pronti a fare a gara nel rinfacciarlo a Berkeley come un peccato capitale. Sì, la concezione della scienza è quella dell'impresa, ripeto, che porti al reale e dal vero senza mai sapere quando raggiungerli, è chiaro che a perdere la gara è il povero Hume, perché il miglior propagandista dello scetticismo allora, è proprio la Chiesa stessa.